America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. It will take a lot of cooperative action between all players by way of implementing some of the decisions that have been made and some of the decisions that need to be made. Christine Lagarde, direttore del Fondo Monetario Internazionale, con un messaggio molto preciso: è arrivato il momento per poter approfittare di tutte le iniziative che sono state prese a livello nazionale in Giappone, in Europa, negli Stati Uniti, soprattutto ha sottolineato iniziative da parte delle banche centrali per cercare di coagulare uno sforzo collettivo e superare, o comunque gettare le fondamenta per superare questa crisi. Perché vi parlo della Lagarde? Perché da domani di fatto cominceranno a Tokyo i lavori del Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale. L'assemblea ogni due anni si tiene nella capitale di uno dei paesi membri, così siamo stati, a seconda del momento, una volta in Spagna, a Madrid, una volta a Istanbul, in Turchia. Ecco, questa volta è toccato a Tokyo. Gli altri due anni invece le riunioni avvengono normalmente a Washington. Ecco, potrebbe sembrare non molto originale quello che ha detto la Lagarde, perché da quant'è che continuiamo a ripetere, beh, insomma, bisogna fare uno sforzo, bisogna andare avanti, dobbiamo riunirci, cercare di mettere insieme il patrimonio comune e sconfiggere la crisi. Non è che la Lagarde ci abbia detto granché di nuovo, però attenzione, perché nel momento in cui i grandi del mondo e soprattutto dei paesi più importanti si ritrovano insieme in una stessa stanza, come capiterà a partire da domani, dopodomani a Tokyo, beh, qualche cosa poi in genere succede sempre. It is true, however, though, for parts of Europe there's going to be no alternative to very substantial adjustment in budget deficits in the size of the commitments governments made. There's no alternative to that. Tim Geithner, segretario del Tesoro americano, sarà anche lui a Tokyo, lo avete sentito, mentre implora l'Europa di fare dei passi in avanti. In effetti, in questo momento l'Europa resta l'area geografica, l'area geoeconomica in maggiore difficoltà, che presenta maggiori incertezze, anche perché non si riesce a trovare quello che ha auspicato la Lagarde, e cioè quel coagulo di intenti che consenta un po' a tutti di cercare di fare dei passi in avanti. Ci sarà un G7 a Tokyo, ci saranno delle riunioni parallele dei membri del G20, ci saranno dei grandi consessi in cui si cercherà di capire se la crisi, la parte più brutta, più difficile della crisi, è stata davvero superata, e dunque con dolore, però senza rischiare troppo, a questo punto si andrà avanti, oppure se ci sono ancora i semi, le radici di questa crisi che ha minacciato addirittura l'esistenza dell'euro. Ecco, a parte gli incontri formali che dureranno tutta la settimana, perché cominceranno con la conferenza stampa del direttore della ricerca del Fondo Monetario, Olivier Blanchard, ci saranno poi, vi dicevo, una serie di altri incontri, sia bilaterali che multilaterali. Ci saranno però anche degli incontri privati. Per esempio, mercoledì ci sarà Larry Fink, che è il presidente, chief executive officer, amministratore delegato di BlackRock, che è la più grossa finanziaria per gestione fondi al mondo. Ecco, il suo intervento da solo, secondo me, finirà per attirare molta più attenzione di quella che sarà dedicata invece ad incontri minori di ministri, magari di qualche paese più piccolo. Bene, questo è un po' un preview di quello che succede questa settimana, una settimana dominata dal fondo, ma oggi, lunedì 8 ottobre, è anche una giornata molto particolare per New York. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's... Oggi è il Columbus Day. A New York si celebra l'anniversario della scoperta dell'America. È sempre il lunedì più vicino al 12 di ottobre. Sappiamo che la scoperta è stata il 12 ottobre 1492, però non si possono fare le feste a New York a metà settimana, si fanno sempre nel weekend. Ed è l'occasione per una grande parata sulla Quinta Strada, dove ci saranno le autorità, dove ci saranno una gran quantità di italoamericani, perché ricordiamolo, la Columbus Parade è sempre e soprattutto una grande festa italiana. Luciano Pavarotti è stato uno dei grandi marshal che ha guidato la parata. Chi è il marshal? Il marshal è la persona che intesta questa parata. Si calcola che c'erano almeno 5.000 persone soltanto a sfilare, e la persona, vi dicevo, che guida la parata. E Pavarotti è stato uno dei grandi che l'ha guidata, ma abbiamo avuto anche Sofia Loren, abbiamo avuto Franco Zeffirelli, abbiamo avuto naturalmente importanti italoamericani come Frank Sinatra, come il giudice della Corte Suprema Antonin Scalia, e quest'anno sarà guidata da un grande finanziere, da Mario Gabelli, che ha un fondo, pensate, che gestisce 35,1 miliardi di dollari. Ma vorrei fare un passo indietro per raccontarvi di un mio pellegrinaggio che ho fatto un paio di giorni fa a Columbus Circle, dove sono stato a vedere la statua di Cristoforo Colombo, questa colonna, e sopra la colonna la statua del grande navigatore, di colui che ha scoperto l'America. Ecco, questa statua è stata voluta dagli italiani, è stata regalata alla comunità di New York nel 1892. C'è un'altra particolarità che vi incuriosirà di Columbus Circle. Columbus Circle è il centro topografico di New York. L'idea è che non ci sia un centro a New York, perché le strade si incrociano, sono tutte perpendicolari. Ebbene, c'è anche questo centro. Cosa è successo? Che un artista giapponese che si chiama Tatsu Nishi ha chiesto di poter così sperimentare un allestimento che si è inventato attorno a questa statua. Ha costruito un vero e proprio grande soggiorno, con tanto di divani, di quadri, di fotografie, di librerie, e il soggiorno poggia su un'impalcatura enorme che è stata costruita attorno alla colonna. E la cosa bizzarra, entrando in questa stanza, perché ci sono andato a un pellegrinaggio proprio per così onorare Cristoforo Colombo, e non credo che mi capiterà mai più di stare seduto in salotto con lui, e il primo colpo d'occhio è quello di un soggiorno, appunto, come vi dicevo, se non che al centro di questo soggiorno, su un piccolo piedistallo nero, c'è la statua di Cristoforo Colombo. Buon Columbus Day. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, beh, in onore del Columbus Day degli italiani d'America e, diciamo, anche di noi stessi, perché Columbus era italiano. Ascoltiamo oggi di Frank Sinatra Fly Me to the Moon. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.